versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, in questo giovedì 20 di novembre, 16:35, primi 44 secondi. Il tema della puntata, per consentire di riflettere, se volete farvi darci la vostra opinione, all'800 24 00 24, oppure 349 238 6666 per gli sms. Parleremo di auto. Perché? Perché per verificare come la pensate, dopo avervela illustrata, una proposta che adesso dettaglieremo nei particolari, ma che è stata avanzata ai fini di consentire alle famiglie e a ciascun individuo l'estensione delle diverse forme di detraibilità fiscale che sono oggi previste per le spese sanitarie, eccetera, eccetera, anche eventualmente all'acquisto di automobili. Qui non si tratta, in altre parole, della vecchia idea dei contributi alle case, no? Per la vendita, che consentivano di abbassare i prezzi e così via. Si tratta di ragionare sulla faccenda del fatto che il portafoglio degli italiani, cioè il reddito disponibile pro capite, è meno 15% rispetto all'inizio della crisi, che questo ha significato, tra le tante altre cose negative, anche un abbassamento molto notevole della quota che gli italiani sono in grado di destinare all'acquisto di beni durevoli, che è scesa quasi di un terzo rispetto a prima, perché è passata dal 9,1% la spesa delle famiglie al 6%. Naturalmente di tutto questo ha anche pagato il prezzo il mercato dell'auto, perché come immatricolazioni siamo tornati indietro di decenni praticamente, e il settore dell'auto, per i punti che ha perso, è sceso come contributo al PIL da quasi il 12% a meno dell'8%, cioè abbiamo perso decine di migliaia di posti di lavoro in tutta la filiera dell'auto. Allora, la questione la quale sono curioso di vedere voi come la pensate è questa. Se la proposta fosse ben fatta di detraibilità fiscale all'acquisto, naturalmente di automobili nuove, questo significa anche diminuire la vecchiaia media molto elevata del parco circolante, eccetera, eccetera, voi sareste favorevoli o contrari? Naturalmente bisogna capire anche quali sarebbero gli effetti sulla finanza pubblica eventuali di questa misura. Tenete conto che insieme alla casa l'automobile è la roba più facile per cui lo Stato tassa e incassa, quindi da una ripresa delle immatricolazioni non è che lo Stato ci rimetterebbe, ma vedremo adesso i dettagli. Ricordo a tutti, ne abbiamo già parlato, che nella legge di stabilità rifà capolino l'aumento dell'accisa sulla benzina, malgrado il prezzo del petrolio sia meno 30% da giugno, eppure nella legge di stabilità si prevede di aumentare per 2,4 miliardi di introito l'accisa. Sapete che il 60% è rotti attualmente del costo alla pompa, è dovuto all'IVA e all'accisa, e del resto, ripeto, quanto sia facile questa pretesa dello Stato sull'auto è testimoniato dal fatto che fino al 1936, quando lo Stato alzò la sua pressione fiscale sulla benzina per finanziare all'epoca i costi dell'impero, cioè la conquista dell'Etiopia e dell'Abissinia, c'era una canzonetta che girava facete la bella Abissina, ci hai fatto andare tra 90 la benzina. Quindi sono dei vecchi difetti dello Stato italiano di prendere laddove è facile. Però per spiegarvi in cosa potrebbe consistere in dettaglio questa proposta, abbiamo con noi presidente dell'UNRAE, Massimo Nordio. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ci fa capire bene da dove nasce questa proposta e come funzionerebbe secondo voi? Allora, la proposta nasce dalle considerazioni che lei ha già fatto in maniera piuttosto precisa, e quindi le famiglie italiane continuano ad avere da un lato una forte esigenza di mobilità attraverso forme private come appunto l'automobile della famiglia, e dall'altro lato il rapporto fra gli italiani e l'automobile continua a essere un rapporto molto stretto, quindi al di là di a volte campagne negative nei confronti dell'auto, di fatto ancora il rapporto è molto forte, un po' basato sulla necessità e un po' basato anche sulla emotività. Quindi noi ci rendiamo conto che per una serie di ragioni per le famiglie è sempre più onerosa la mobilità attraverso i mezzi, diciamo, privati, e quindi abbiamo pensato che se la mobilità è un bene, una libertà più che un bene primario che deve essere tutelato, sia anche giusto, oltre aiutare gli italiani per quando fanno le ristrutturazioni delle loro abitazioni, magari aiutarli anche a cambiare la loro auto, non, senza dimenticare che abbiamo il parco circolante più vecchio d'Europa, che arriva quasi a 10 anni di età media, di 35 milioni di automobili, più di 10 milioni di queste sono auto Euro 1 Euro 2, quindi vuol dire auto che hanno più di 10 anni. Quindi dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista dell'impatto ambientale, rispetto a quelle di oggi, sono come dal Medioevo alla rivoluzione industriale. Perché naturalmente questo significa non solo maggiori consumi, significa anche più incidenti, più vittime, più feriti, più costi pubblici, oltre che naturalmente il dolore per i familiari di chi è coinvolto negli incidenti. Assolutamente, l'ACI ha appena pubblicato un bellissimo studio, dove è bellissimo tra virgolette naturalmente, certo, però più diciamo significativo, dal quale si vede chiaramente che c'è una correlazione molto forte in caso di incidente, ovviamente tra l'anzianità dell'automobile e la percentuale, diciamo, di danni, la gravità dei danni che si ha. Naturalmente non tanto legato al fatto che l'auto sia più o meno bene manutenuta, ma esclusivamente al fatto che gli equipaggiamenti di serie oggi sono completamente diversi rispetto a quelli di più di 10 anni fa. Io ho visto una statistica che avete appunto abbinato alla proposta, che dice che il tasso di mortalità, cioè i morti per 1000 autovetture coinvolte in incidenti, delle automobili con più di 11 anni di vita, quindi a parte appunto delle caratteristiche del nostro parco circolante, ecco, il tasso di mortalità è triplo di quelle con meno di 2 anni, quindi insomma in effetti non proprio secondario come effetto. In che cosa potrebbe consistere la proposta di detrazione, spiegandola concretamente a chi è in ascolto? Ma allora, noi abbiamo pensato di costruire una proposta che sia in qualche modo già familiare a noi italiani dal punto di vista del funzionamento, proprio per evitare di creare qualcosa di nuovo e di complicato e renderlo subito operativo. Quindi è di fatto una detrazione dal reddito imponibile, ogni anno quando si fa la dichiarazione dei redditi, diciamo, viene presentata, e così come si detraggono per esempio, non so, le spese per le università, le spese per le ristrutturazioni edilizie, per l'acquisto dei mobili in caso di ristrutturazione e tante altre, sarà possibile, sarebbe nel caso in cui questo venisse poi fatto, è possibile detrarre fino al 10% del costo di acquisto, fino a un massimo di 2000 euro in 4 anni, quindi la detrazione sarebbe spalmata in un periodo di 4 anni. Ci dovrebbero essere poi due condizioni importanti: la prima, che il livello di emissioni dell'auto nuova non deve essere superiore a 120 grammi per chilometro, che comunque è più basso come livello di emissioni rispetto a quello previsto dalla Comunità Europea per il 2015, che è di 130, quindi andremo a premiare ulteriormente le auto più, tra virgolette, virtuose, e allo stesso tempo una rottamazione di una di queste auto di cui parlavo prima, Euro 0, 1 e 2, che quindi verrebbe tolta dalla circolazione. Nei conti che vi siete fatti come simulazione rispetto all'attuale andamento del mercato, che solo in questi ultimissimi mesi ha qualche segno più dopo anni di caduta che ci hanno fatto tornare indietro di decenni, nella vostra simulazione questa misura, se adottata, che quali effetti potrebbe provocare quantitativamente? Allora, noi abbiamo calcolato che ci possa essere il primo anno, che sarebbe poi l'anno con, diciamo, l'impatto maggiore, circa 100.000 famiglie in più farebbero questa scelta di sostituire la loro automobile, cosa che non avrebbero fatto nel caso in cui questo sistema di detrazioni non fosse diventato, diciamo, in vigore, non fosse entrato in vigore. Quindi il primo anno 100.000 e poi gradualmente scendere fino a 55 dell'ultimo anno, quindi una aggiuntività stimata nei 4 anni, perché noi abbiamo basato lo schema di detrazioni su 4 anni, di circa 300.000 famiglie in più che possano accedere a questo tipo di facilitazione. Ma gli effetti sulla finanza pubblica quali sarebbero? Ma allora, abbiamo fatto i calcoli per valutare ovviamente alla fine, diciamo, dopo questi 4 anni, tra entrate e uscite, quale sarebbe il bilancio, e a fine del ciclo sarebbe positivo per 22 milioni di euro, quindi si riuscirebbe a dare questa facilitazione alle famiglie italiane, ma poi calcolando l'IVA aggiuntiva, esatto, sulle vendite aggiuntive più tutte le altre tasse, diciamo, connesse a purtroppo l'immatricolazione, l'imposta provinciale, eccetera, insomma, alla fine noi tutti insieme, perché poi lo Stato siamo noi, porteremmo a casa un risultato positivo di circa 22 milioni di euro. Ma insomma, io sa che sono dell'idea che lo Stato sono loro, perché io non decido le spese e le tasse, ma le subisco. Però detto questo, non solo è autosostenibile la proposta, ma alla fine di questi 4 anni, rispetto a quello che lo Stato ovviamente spende per finanziare le detrazioni, ci sarebbe un saldo positivo anche per la finanza pubblica. Anche per la finanza pubblica, ma naturalmente il problema è soprattutto quello di A, dare una mano alle famiglie, B, contribuire non attraverso le case, ma attraverso la spesa delle famiglie, il reddito delle famiglie, anche poi al rilancio del settore e dei consumi dell'auto nel nostro paese. Certo, resta il fatto che già vedo in molti sms arrivati che comunque è un incentivo, infatti molti dicono vabbè, ma però non avevamo deciso che era meglio andare senza gli incentivi al mercato, che drogano il mercato? Figuratevi se mi dovete convincere di questo. Adesso è la prima domanda che faremo al presidente Nurai, che è con noi, Massimo Nordi. Intanto abbiamo però 60 secondi, appunto, visto l'argomento di strada. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, stiamo parlando di questa ipotesi avanzata dal non RAE, quindi stiamo parlando di tutte le case produttrici estere sul mercato italiano, di una ipotesi di detrazione fino al 10% del costo di acquisto delle auto, fino a un massimo di 2.000 euro in 4 anni per le famiglie. Mucchio di reazioni, devo dire, io condivido tutte quelle che sono sdegnate di fronte al fatto, sì, imposta provinciale sulle automobili resta, perché guardate, le province sono di secondo livello, non si leggono più, ma i loro quasi 9 miliardi di entrate fiscali sono rimaste, quindi se qualcuno di voi, lo vedo dagli sms, è rimasto perplesso di fronte alle parole di Massimo Nordio, no, è proprio così, e naturalmente è solo una delle decine di imposte che gravano sull'auto, quindi molti di voi dicono, ma non sarebbe più utile direttamente diminuire la pressione fiscale sull'auto? Risata, e non mi dovete convincere a me, ma lo Stato, come vedete, pensa ad aumentarle le entrate, lo fa anche legge di stabilità con la CISA da gennaio. Altri dicono a Massimo Nordio, però il 10% in realtà è fino a 2.000 euro in 4 anni, è poco. Allora io gli giro le vostre osservazioni, anche se altri poi aggiungono, un ascoltatore dice piuttosto che niente, a me piuttosto, e quindi anche, c'è anche chi apprezza, per così dire. Nordio, cominciamo a rispondere ad alcune di queste osservazioni. Tornare a incentivi non significa ritornare a una droga? Ma io su questo spesso mi trovo a dover dibattere, perché la parola incentivi viene utilizzata un po' a 360 gradi per cose completamente diverse fra di loro. Ora, io non credo che sia importante definirla o no incentivo. Quello che è importante è che ci sono delle ragioni molto concrete che abbiamo detto prima, quindi il problema della mobilità individuale è che questa mobilità avvenga in sicurezza e con un impatto sull'ambiente ridotto, a fronte di un parco circolante che necessita di essere rinnovato. Quindi se questo serve a favorire, ben venga, questo è il nostro punto di vista. Ora mi rendo conto che l'ascoltatore che ha detto ma è poco, sì, bisogna calcolare che questo si aggiunge alle condizioni di acquisto che oggi vengono fatte dalle reti dei concessionari e dalle case automobilistiche, che sono già particolarmente vantaggiose rispetto a qualunque periodo degli ultimi 10 anni, e quindi sommando le due cose si potrebbe dire che veramente il momento ideale per comprare l'automobile, o per cambiarla soprattutto, per cambiare la vecchia automobile, è oggi. Naturalmente dico ai tantissimi sms che arrivano, dice no, sì, ho capito, ma qui c'è gente che proprio non ce l'ha i soldi per la macchina, e infatti questo è un punto che ovviamente non è toccato dalla proposta di oggi. Qui il problema è chi si fa i conti e pensa di non farcela, se con una mano a quel punto fiscale di detrazione rispetto ai propri redditi potrebbe ragionare diversamente. Naturalmente mi rendo conto che l'allarme, disoccupazione e poco reddito, se lo incentriamo su chi non è in quella fascia, ovviamente non è interessato da questo tipo di proposta. Però il problema è anche non far finta di niente e sperare che la domanda riprenda da sola, perché la domanda, come vedete, da sola purtroppo non riprende, né il solo export da solo, che purtroppo tossisce anche lui in questi ultimi mesi per via dei mercati internazionali, ci può riportare a un segno più molto consistente, per quanti miracoli possano fare le 200.000 imprese italiane che esportano. Sentiamo un po' di ascoltatori, cominciamo con Paolo da Pavia. Prego Paolo. È caduta la linea di Paolo, vediamo di richiamarlo. Italo da Trento, prego Italo. Salve Gianino, buonasera. Salve. Indubbiamente le parole hanno un peso, incentivazione, come ha detto lei, è un po' di droga, ma se dobbiamo incentivare in modo generalizzato, io penso che la prima cosa che dobbiamo fare è incentivare il nostro lavoro. E cosa vuol dire questo? Vuol dire incentivare coloro che comprano macchine italiane, in modo tale che il parco macchine straniero, che supera il 72%, venga un po' ridotto e ci sia più lavoro. Questo ritengo che sia fare l'interesse del popolo italiano. Italo, l'interesse ancora di più dell'importazione delle macchine straniere, che sono quelle diventate sempre più grandi. È chiarissimo, ma non so se siano le più grandi, perché vedi le giapponesi, le coreane non sono le più grandi. Cioè gente. Allora io ti dico la mia opinione, poi sentiamo quella di Massimo. Primo, io difendo la libertà del consumo, capito? E io la difendo, perché non è che la gente deve essere obbligata a comprare le robe che non gli piacciono e che secondo me sceglie in alternativa, voglio dire, non sceglie perché non è soddisfatto delle prestazioni, dei consumi e così via. Il mercato funziona così. Se la quota del produttore italiano è scesa negli anni è perché agli occhi del consumatore italiano non fa più auto convenienti. Quindi, primo, io difendo il consumatore. Secondo, apparteniamo a un'area che si chiama Unione Europea, il cui fondamento è quello di intervenire con un bel fischio che impedirebbe questo tipo di provvedimento che dici tu, perché ovviamente viola le regole fondamentali della concorrenza al mercato e della libera scelta del consumatore. Poi sentiamo cosa pensa Massimo Nordio, sentiamo ancora però l'opinione di Paolo da Pavia. Prego Paolo. Sì, grazie Oscar. Io mi domando su che terra vivono questi signori. Noi paghiamo una Passat, costa 300 euro in busta paga un dipendente sul netto, costa solo il 70% di gestione un agente di commercio, e questi sono quelli che cambia la macchina spesso. Se per caso la prendi più grossa, che ti dura un po' di più, è l'accertamento fiscale. Le strade si sbriciolano. Ma di che cosa stanno parlando? Paolo, di che cazzo stanno parlando questi? Allora, questo tuo commento, ci sono anche alcuni sms di quelli della filiera dell'auto, per esempio ce n'è uno che ha un carro di recupero e dice: complimenti al governo che dopo aver fatto passare il messaggio che chiunque ha automobili eccetera eccetera è un evasore fiscale, adesso si rende conto del danno che ha fatto. Sentiamo intanto Massimo Nordio come la pensa su queste prime osservazioni che abbiamo raccolto. Allora, per quanto riguarda il primo ascoltatore, il tema delle auto straniere, insomma, o delle auto non straniere, è un tema un po', come dire, vecchio, nel senso che basterebbero questi due dati. Le case automobilistiche estere danno lavoro in Italia a 150.000 occupati attraverso le reti distributive, quindi concessionari e punti di assistenza. Le case estere comprano il 44% della produzione dei produttori di componentistica, che vendono quasi la metà dei loro componenti a chi poi porta le auto in Italia e le vende in Italia. Quindi questa vecchia ripartizione è una bella risposta rispetto alla ritirata del produttore nazionale, questo almeno è quello che penso io. Comunque moltissimi sms, vediamo, il governo mi ascolterà secondo lei? Ma finora ci ha ascoltato con molto interesse, però chiaramente a noi quello che interessa non è solo di essere ascoltati. Vediamo, esatto, ma se qualcosa passa. Intanto la ringrazio, grazie al Presidente Unrai, Massimo Nordio, continuate con TV24, appuntamento con me, a domani!